mio cuore c'è un vulcano che non muore. Sei mio, sei mio. Questo amore chi lo spegnerà? Nel dolore io no, tu sei il sole. Oh, il mio corpo è qui ed è un fiore che si apre. Hey.